Garibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati, bentornati a Zibaldone, nuova puntata qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. È una puntata, io ho tanta voglia di ascoltare questa musica, secondo me lo capite già da queste prime note di cosa parleremo. Vamos alla playa, dai, è quasi arrivata l'estate e abbiamo anche una gran voglia di fare vacanze. Banzo, soprattutto tu sei pronto con pinne, fucile ed occhiali perché ti voglio vedere in spiaggia immediatamente. Bentornato e buon pomeriggio, Banzo. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Non lo so, è una domanda difficile, tu sai che io non sono proprio un tipo da spiaggia, ma te la giro subito con un'altra domanda. Tu quanti anni avevi, Steven, quando ti sei reso conto che Vamos alla Playa descriveva uno scenario post-atomico? ci ho messo un po' di anni, adesso non ricordo l'anno esatto, ma forse era già in questo millennio. Sì, no, perché effettivamente, avendola sentita da bambini quando non sapevamo lo spagnolo, poi magari abbiamo imparato lo spagnolo, non abbiamo più pensato al resto del testo di Vamos alla Playa. Io non ricordo esattamente che anno fosse, però ricordo il momento in cui dissi: ma parla dei postumi, delle conseguenze di una esplosione atomica. Niente, praticamente è stata la distruzione dell'innocenza, una fra le varie che sperimentiamo nel corso della vita. Ce ne sono tante. Banzo, però, bando alle ciance, diciamo subito ai nostri ascoltatori perché abbiamo cominciato con questa canzone e qual è il titolo della puntata? Il titolo della puntata è La Repubblica di Johnson Rigueira e effettivamente appare nel titolo e abbiamo messo Vamos alla Playa perché sarà il nostro graditissimo ospite di oggi, ma non solo, perché avremo due interviste oggi, Steven. Eh sì, Johnson Rigueira, ma ci sarà anche Diego Fiore, che è l'organizzatore di un festival che si terrà il prossimo fine settimana qui a Barcellona, 31 maggio, 1 giugno, che si chiama Italia Republic, no? E quindi insomma, abbiamo giocato, come capite, tra la Festa della Repubblica e questo festival Italia Republic con Johnson Rigueira, che è uno degli invitati. Ma di tutto questo parleremo con Diego Fiore e ovviamente con Johnson Rigueira. E noi ci ascolteremo un po' di musica di Rigueira e anche di Johnson nei tempi più lontani, prima ancora di quando uscivamo alla Playa, che era proprio l'inizio degli anni Ottanta. Banzo, cominciamo però con un, dopo questo brano, prima di parlare con Diego Fiore, un altro brano di Rigueira, forse meno conosciuto. Una chicca vera e propria, perché si tratta di una reinterpretazione di un brano dei Divo, che sono sempre stati una grande ispirazione di Rigueira. Si tratta dell'originale Girl You Want, uscito nel 1980, che nella versione di Rigueira diventa La Mujer Que Tú Quieres, perché sappiamo che Rigueira ha un feeling con la lingua spagnola, ed è interessante perché è un brano del 2007, che è contenuto nell'unico album del post Reunion, perché la Reunion risale al 1999, ci è voluto un po', ma nel 2007 esce questo album Mondovisione, che era un concept dedicato alla quotidianità digitale dei primi anni 2000, un album che purtroppo non ha avuto il successo sperato. E dopo i Rigueira non hanno pubblicato più inediti, a parte alcune collaborazioni, la più celeberrima è quella con i Subsonica, pure di Torino, e lo scioglimento definitivo arriverà nel 2015. Comunque adesso ci ascoltiamo questo classico dei Divo nella versione di Rigueira, un brano bellissimo in una versione che gli rende veramente giustizia. Eh sì, e poi parleremo con Diego Fiore, La Mujer Que Tú Quieres. Loro sono i Rigueira, 2007. Amor. Bene, e per parlare di questo bellissimo festival che, come vi dicevamo, si tiene la prossima settimana qui a Barcellona, 31 maggio, 1 giugno, Italia Repubblica, al Mol della Fusta, quindi in pieno centro alla fine delle Ramblas, abbiamo con noi Diego Fiore, organizzatore di Italia Repubblica. Diego, innanzitutto un piacere averti con noi a Zibaldone. Buongiorno, piacere reciproco. Ciao Steven e ciao a tutti. Ciao Diego, guarda, sono molto contento di averti con noi, poi per parlare di questa bellissima iniziativa che state portando avanti da un po' e che finalmente, insomma, vedrà la luce la prossima settimana. C'è musica, ci sono dibattiti, si può mangiare, insomma si può discutere, ci sono tantissimi invitati dall'Italia, italiani che vivono qui, italiani che vivono in giro, insomma. Cominciamo brevemente, raccontaci un po' come è nato questo progetto che coincide, insomma lo capiscono anche immagino i nostri ascoltatori dal nome, con la Festa della Repubblica il 2 giugno. Certo, assolutamente sì, coincide con la Festa della Repubblica, e, però diciamo che noi crediamo che insomma sia venuto il momento e crediamo che Barcellona si meritasse un festival, prima cosa aperto a tutti ovviamente, infatti l'entrata è libera, e insomma che un evento che celebri l'unione tra la nostra cultura e la città di Barcellona, perché siamo una delle comunità più numerose e ormai ci siamo ampiamente integrati qui, ed è anche una forma, a mio modo di vedere la cosa, insomma, di devolver, no? Di ridare alla città di Barcellona qualcosa di culturalmente rilevante dal punto di vista della comunità italiana. Quindi l'idea è un po' questa, insomma, due giorni di celebrazione dell'unione tra culture italiana e barcellonesa. Quindi questa è un po' l'idea di fondo. Bene, bene. Poi parlare di culture di questi tempi, insomma, che sono sempre un po' più bui, più oscuri, esatto. Di comunicazione tra popoli, tra persone, è fondamentale. Assolutamente, quindi cultura con valori europei e mediterraneo, questi temi, insomma, che in questo momento è sempre più urgente rimarcare, e quindi anche con delle piccole iniziative, insomma, credo che si cominci dalla vita quotidiana di ognuno di noi. Ecco, magari descrivici un po' che cosa avete in programma, Diego, perché insomma il programma è ricchissimo, cominciate alle 11 del mattino, si continua fino a mezzanotte, ci sono in ballo tantissime cose. Sì, dunque sono due giorni, quindi sabato 31 maggio e domenica 1 giugno al Mol della Fusta, quindi qua in pieno centro, ingresso libero, lo voglio ripetere perché non è un dettaglio, e l'orario sì, iniziamo alle 11 del mattino. Siamo felicissimi il sabato di aprire il festival con la presenza del Teatro Stabile di Barcellona, che sta organizzando una opera legata alle opere di Montalbán e Camilleri, come simbolo un po' anche di unione tra le culture. L'abbiamo scelto un po' come simbolo dei valori che ci sono di fondo, no? Nel festival. E subito dopo abbiamo una conferenza e questo è l'aspetto che voglio rimarcare di più. Siamo molto felici di avere le ragazze della Via Libera che arrivano da Torino e che parteciperanno alla conferenza. La Via Libera, lo ricordo, è la rivista dell'Associazione Libera che lotta contro la mafia, sì, a livello nazionale e internazionale. E quindi siamo molto felici e orgogliosi di averle con noi e di darle spazio qua a Barcellona. E anche per rompere un po', no, i pregiudizi e anche insomma gli stereotipi che ci portiamo un po' dietro, ecco, noi come italiani all'estero. Quindi insomma gridarlo alla città di Barcellona credo che sia necessario, e siamo felicissimi di averle con noi. E dopodiché musica, quindi dall'una in avanti vermouth e musica rigorosamente con vinili, perché crediamo moltissimo nella cultura dell'analogico, quindi ci saranno vinili a cura di Vintage Luca, ci sono dei food truck di ottimo livello con prodotti tipici italiani, come no, quindi pasta fresca, pizza e altri prodotti, quindi una scelta assolutamente ricca. E la sera del sabato abbiamo puntato tutto sullo swing, perché crediamo che sia un genere assolutamente insomma di garanzia per ritmo, per ballo e per coinvolgimento del pubblico. Quindi abbiamo Stefano Riva, Maria Teresa Lonetti che fa folk, e l'Oscar Osones che chiudono la serata con atmosfera molto dolce vita anni 50, quindi molto da ballo. Abbiamo anche una scuola di swing invitata, quindi insomma il sabato sarà molto molto atmosfera dolce vita. C'è anche lì un programma ricchissimo, no? Si comincia con il folk, sì, al mattino, ma poi viene anche un altro grandissimo personaggio, scrittore che unisce poesia e musica, che è Vincenzo Costantino Cinaschi. Esatto, quindi abbiamo chiamato Vincenzo e siamo felicissimi di averlo con noi. Farà uno show con improvvisazione dei suoi versi, con un tastierista che lo accompagnerà, e collaborerà con noi anche fuori dal palco in una maniera che vi invito a scoprire di persona, insomma. Lui è un personaggio fantastico che veramente siamo contenti che venga. E ci sarà anche Operazione Romina, che è un collettivo hip hop qua con musicisti provenienti da ogni dove, quindi non è assolutamente solo italiano. E Vale Luna apre, e poi un po' di folk. Disco, esatto, no? Il pomeriggio sera, diciamo, della chiusura della domenica 1 giugno invece tira su disco Italo Disco, esatto. Con anche un grande personaggio che i nostri ascoltatori ascolteranno in viva voce tra pochi minuti. Esattamente, quindi Johnson, ti stiamo aspettando, siamo veramente veramente felici e entusiasti di averlo, quindi arriva Johnson Righeira da Torino, dalla mia amata Torino, e quindi la domenica, anche in occasione dei 40 anni dell'uscita del disco L'estate sta finendo, sì. Siamo molto contenti che lui torni qua, e anche lui, so per aver parlato con lui, insomma, che è entusiasta, e farà uno spettacolo all'interno di Glove è un collettivo di DJ e performer molto attivo qua a Barcellona, in sale come la Paloma e altri spazi emblematici, quindi domenica pomeriggio Italo Disco, e siete tutti invitati a ballare, a sommergervi, insomma, di 80s esattamente. Ci sono molti anni 80 in questa seconda giornata di Italia Repubblica, lo ricordo, Festival di Musica, Cultura e Inclusione, un ponte tra Barcellona e l'Italia, 31 maggio sabato, 1 giugno domenica al Mol della Fusta, quindi praticamente, insomma, in pieno centro. Continuate le Rambla, per chi non conoscesse Barcellona, che lo dubito, e trovate il Mol della Fusta, si può mangiare, si può bere, si ballerà molto, si appunto anche discuterà, no? Appunto la conferenza del sabato 31 che ha ricordato, no? Con la Via Libera, per parlare anche di mafia, ci sarà teatro, insomma una bellissima iniziativa. Diego, innanzitutto in bocca al lupo per questi due giorni, per quello che manchi ancora di preparativi, e ci aggiorniamo presto, e soprattutto l'anno prossimo aspettiamo una nuova edizione di Italia Republic. Io ti ringrazio, ti mando un abbraccione, e seguiteci sulla nostra pagina Instagram @ItaliaRepublic con la K finale, così mando ai equivoci. Grazie ancora, grazie ancora. Steve. Italia Republic, un abbraccio, ciao Diego. Grazie, un abbraccione, a presto. De una dea tú eres, patria de estos te crean. vabbè, dopo aver aperto la puntata con Vamos a la Playa, ora No Tengo Dinero, insomma, sicuramente i due brani che i nostri ascoltatori più ricorderanno dei Rigueira. Perché? Perché oggi l'abbiamo già annunciato, abbiamo con noi grande ospite Johnson Rigueira, a cui do subito il benvenuto, auguro buon pomeriggio e mando un grande abbraccio. Johnson, come stai? Bene, bene, sto molto bene, piacere di sentirti, piacere di essere qui con voi. E sto, diciamo, affilando le lame per arrivare a Barcellona tra qualche giorno e niente, nel frattempo farò una capatina in Belgio a seguire la mia Union Saint-Gilloise, quindi si preannunciano un paio di settimane di viaggi intense e spero molto belle, insomma. Beh, ce lo auguriamo, insomma, diciamo subito anche ai nostri ascoltatori che tu sei un tifoso, cioè uno dei più famosi tifosi di questa squadra belga. Sì, è che domenica si gioca lo scudetto, tra le altre cose, quindi che sarebbe, sto ovviamente facendo dei gesti tipicamente italiani, scaramantici in questo momento, ma tanto non si vede, meglio così, e, perché stiamo rischiando di vincere il primo scudetto dopo 90 anni. Insomma, quindi questo fine settimana è cruciale e mi auguro sono che... Sono già in un'ansia... Ma ascolta, però la domanda, come avrebbe detto Lubrano, no, sorge spontanea. Come mai ti sei avvicinato così tanto a questo club del Belgio? Ma perché tanti anni fa, ormai 13 anni fa, mi trovavo a Bruxelles, 13 anni fa mi sembra, adesso non mi ricordo, io sulle date non sono molto forte. E niente, mi trovavo a Bruxelles perché ero a festeggiare il compleanno della Piola Libri, che è un luogo, un punto di riferimento di Bruxelles, di libri e anche un po' di cucina per gli italiani, ma non solo, vicino al Parlamento Europeo. E loro festeggiavano il 10° anniversario, mi sembra, e ci invitarono, me e mio ex socio, appunto a cantare lì in libreria da loro. Ovviamente era una situazione piccola perché andammo molto in amicizia, e però io chiesi loro di ospitarci almeno un 3 giorni, perché noi facciamo questo lavoro, che cantiamo, che andiamo in giro a suonare, a cantare, cioè andiamo in un sacco di posti ma non vediamo mai un cacchio, perché fai tutto sempre molto di corsa, cioè arrivi, sì, albergo, le prove, le cose, cena, l'esibizione, torni in albergo, dormi, di solito quando ti svegli parti. Quindi non hai proprio il tempo di vedere. Allora, quella volta lì, essendo Bruxelles una città che avevo visto in passato e mi piaceva molto, ho chiesto di starci qualche giorno. E non so perché quella volta mi ero fissato e volevo andare a vedere una partita. L'unica squadra che giocava in casa in quel weekend era l'Union Saint-Gilloise, che io non conoscevo. Nel frattempo era, anche perché aveva avuto un passato glorioso prima della Seconda Guerra Mondiale, poi bene o male dopo la Seconda Guerra Mondiale era un po' decaduta, aveva avuto alti e bassi, ed era proprio in quel periodo, quando sono andato su a Bruxelles, era proprio in una fase di bassi, cioè era in Serie C. Ma io andai a vedere e scoprì che tutti gli altri amici italiani che avevo lì erano tifosi di questa squadra, la squadra del popolo, insomma tutta una serie di cose, per cui andammo in gruppo a vedere la partita. Io mi innamorai di questo calcio d'antan, proprio un calcio un po', qualcosa di un po' vintage, e la cosa è proseguita. Poi però ho cominciato poi negli anni anche ad andare a vedere periodicamente delle partite, 2, 3, 4 volte l'anno, e nel frattempo siamo risalti in Serie B, poi in Serie A. Sono 4 anni che facciamo i playoff per lo scudetto. E niente, quindi la squadra è tornata tra le grandi, e oltretutto allo stadio poi mettono Vamos a la Playa quando segniamo, cioè, per cui diventato... Infatti ho già 3 interviste con i giornalisti belgi che mi aspettano in questi giorni, e proprio perché a un certo punto diventò una notizia curiosa il fatto che un italiano, quello di Vamos a la Playa, penso peraltro che anche in Belgio ebbe molto successo, pareva molto strano che un italiano, quello di Vamos a la Playa, in più fosse tifoso dell'Union Saint-Gilloise. Meraviglioso. Invece è così, io sono molto legato, ma sono legato, sono diventato amico del sindaco di Saint-Gilles, c'è cioè proprio una roba, ormai sono di casa. Sei quindi, di casa. E quindi domenica vado su, non vedo l'ora, e anche se c'è un'ansia, come ti dicevo prima, molto forte. E incrociamo le dita, incrociamo le dita. Incrociamo le dita, che è una cosa che si può fare anche in pubblico. Ecco, esattamente. E speriamo di poter festeggiare con te la prossima settimana questo scudetto dopo quasi un secolo. Esattamente, esattamente. Ascolta, domanda ovvia, però insomma, trovandoci a Barcellona, verrai qui, lo sappiamo, per l'Italia Republic domenica pomeriggio all'interno del Glove l'1 giugno, insomma, non perdetevelo qui a Barcellona, questo avvenimento veramente da segnare sull'agenda e da non perdere. Insomma, la domanda ovvia anche qui è: come mai avete scelto l'uso dello spagnolo per le vostre prime canzoni e quelle che poi hanno avuto più successo, come No Tengo Dinero o Vamos a la Playa, appunto? Da dove nacque quella scelta? Questa è una domanda che ovviamente non mi è mai stata fatta. Ma lo spagnolo, che è diventato poi un marchio di fabbrica, conseguentemente il grande successo di Vamos a la Playa, in realtà nacque proprio per Vamos a la Playa. Io stavo scrivendo, iniziai ispirandomi alle canzoni degli anni 60, cioè ritenevo che una operazione al reset che il punk aveva fatto con la musica nel mondo anglosassone, ritornando un po' al rock and roll delle origini, io pensavo che in Italia si potesse fare ripartendo da un periodo in cui la musica leggera italiana era stata rivoluzionata, probabilmente anche dall'influenza del rock and roll, cioè dai primi urlatori tipo Nina, Celentano, Toni Dallara, ma nel mio caso soprattutto Peppino Di Capri e Edoardo Vianello, che furono i miei ispiratore degli inizi. E infatti so che dopo metterei anche un pezzo che si intitola Clonazione Jegeje, fa proprio parte di quel periodo lì. Poi ci fu uno step 2.0 in cui, a quel punto, superata la fase, diciamo, reset, cominciavo a pensare in divenire, no? Per cui, pur continuando ad ispirarmi alle canzoni da spiaggia degli anni 60, e cominciai però a metterci dentro influenze molto più elettroniche. Il demo originale di Vamos a la Playa, che è disponibile peraltro su tutte le piattaforme, che è del 1981, denota proprio queste influenze anche molto kraftwerkiane per certi versi. E l'idea dello spagnolo, siccome la canzone era una canzone da spiaggia, ma da spiaggia da day after, spiaggia post-atomica, dopo che già sì. Probabilmente inconsciamente ero influenzato dal clima pesante di guerra fredda che c'era all'epoca, come se adesso stessimo meglio. Mi piaceva, trovavo banale farla in inglese o in tedesco, mi ispirai un po' a una canzone famosa sempre degli anni 60, che ebbe grande successo non credo solo in Italia ma penso anche in Spagna, un po' dappertutto, Quando Calienta il Sol. Sì. E feci questa canzone con queste parole che mi piaceva molto come suonavano in spagnolo, tipo fluorescente, radioattivo. e quindi nacque l'idea di fare questa canzone quasi che lo spagnolo gli desse una maggior leggerezza per certi versi, nonostante parlasse, perché la canzone, anche se parlava di una spiaggia dove erano già esplose le bombe, il mare era fluorescente, c'era il vento radioattivo, in realtà non era una canzone apocalittica, era una canzone che diceva vabbè, cacchia se ne frega, vuol dire che se scoppia le bombe diventeremo blu e invece di andremo lo stesso in spiaggia, cioè, la roba era un po' così, quasi come un filmettino di serie B, un B-movie di fantascienza, insomma, ecco. E l'idea, e mi piaceva molto come suonava lo spagnolo, perché era completamente, forse non c'entrava niente in quel contesto ed era proprio quello che mi piaceva. Sì. Ignoravo che sarebbe stata probabilmente la chiave di volta che avrebbe fatto sì che il brano poi avesse successo praticamente in tutto il pianeta, anche perché la lingua spagnola è sicuramente la seconda lingua, credo, più parlata al mondo, se non la seconda, la terza, ma io non calcolavo questo, ero in una cantina che puzzava di muffa, stavo cercando di fare un pezzo che mi piaceva e non immaginavo quello che sarebbe poi successo in seguito. Io cercavo di fare un pezzo che mi piacesse e che esprimesse bene quello che io volevo fare in quel momento. momento. Poi chiaramente le cose andarono in un modo assolutamente imprevedibile e siamo qua ancora dopo 42 anni a parlarne, quindi vuol dire che è andata bene. È andata benissimo, è un pezzo che fa ballare dovunque, tra l'altro insomma, ma sia di Vamos a la Playa Johnson che di No Tengo Dinero, insomma, non so se tu hai calcolato in tutti questi anni quante versioni in lingue diverse o nella stessa lingua, voglio dire riproposte però con altri ritmi, sono state fatte, perché non so, sono centinaia direi. Io credo che siano tanti, per una volta le collezionavo, nel senso che le cercavo, c'erano i file su internet, da qualche parte se ne ho ancora, ma io ho sentito versioni polacche, ho sentito Un'estate sta finendo in ungherese, e poi addirittura in Messico fecero Ne tengo di nero e nella parte, nella frase che noi diciamo los nuevos italianos, loro dicevano los nuevos mexicanos e poi soprattutto ogni popolazione di lingua ispanica soprattutto non pensava che fossimo italiani, ecco, questo è, ma questo non lo pensavano neanche in Italia, che siamo riusciti a fare un'operazione di marketing involontario clamorosa, insomma, ed è stato divertente anche quello. Ancora adesso in Italia si chiedono se eravamo fratelli, quando noi ci spacciavamo, ma apertamente, in modo fasullo, per falsi fratelli, ecco. E invece vedi che la gente crede alle cose, se le dici in modo convincente la gente ci crede, purtroppo. Perché non è sempre una cosa bella. Dai tempi di Goebbels diciamo questa strategia ha avuto un certo successo, no? Esatto, esatto. Io pensavo anche solo ai giorni d'oggi, insomma, che sia già abbastanza, insomma, ci sono già abbastanza cose. No, noi avevamo addirittura trovato anche, ma non la mandiamo in onda in questa occasione, non so se tu la ricorderai, una versione di No Tengo di Nero del piccolo coro dell'Antonio Antoniano. Ah sì? No, io non me la ricordo, sinceramente quella non me la ricordo, però per il coro dell'Antoniano ha fatto anche, tra l'altro anche all'ultimo Zecchino d'Oro ho presentato insieme a dei miei amici, abbiamo presentato un pezzo che si intitola L'estate sta iniziando. per i bimbi dai era un po' più allegra, no? Sì, certo. Anni fa avevamo fatto invece, sempre io, in questo caso io e Michael, abbiamo scritto un pezzo per uno Zecchino d'Oro, si intitolava Annibale, ed era una delirante versione della storia di Annibale. Ascolta una cosa, ma a proposito, il vostro all'epoca, primo contatto con la Spagna, qual è stato e com'è andata? Io mi ricordo, è stato un turbinio tale per cui non ho dei ricordi molto precisi. Ricordo che siamo stati in tour, cioè in tour promozionale, fare radio, TV in Spagna, sia a Barcellona che a Madrid. Poi mi ricordo anche che andammo a fare una TV a Tenerife durante il Carnevale, che fu veramente un flashone, anche perché poi mi sono trovato un amico che vive là, anzi un mio quasi cugino, e ci sono poi tornato qualche anno fa vivendolo un po' più consapevolmente, nel senso che ripeto, il periodo iniziale fu un delirio, saltavamo da un aereo all'altro, non c'era neanche tempo di capire dove ti trovavi, perché era tutto molto veloce, molto intenso, e eravamo sicuramente anche un po' storditi da tutta questa cosa. E ascolta, guardando indietro nel tempo, no? Ormai lo dicevi prima, sono passati più di 40 anni, cosa ti porti dietro di tutto quell'esperienza, quel turbinio iniziale incredibile? Ma poi dopo ci sono stati tanti altri anni, dopo ci ascoltiamo una canzone tra l'altro dell'88 in cui mantenete ancora lo spagnolo, no, compagnero? Sì, perché poi è diventato quasi un po' un marchio di fabbrica. Per esempio io adesso sto lavorando un pezzo nuovo che spero esca presto, perché è di nuovo un pezzo estivo dopo anni, insomma, si tenta di nuovo un'uscita estiva con chiaramente anche sull'onda un po' del Festival di Sanremo, che mi ha dato una certa visibilità, e una canzone però moderna fatta con il Stato Sociale, e in cui c'era qualche parola di spagnolo nel primo testo che avevano buttato giù loro, nella prima idea di testo, così io ho preferito togliere i riferimenti, in questo caso lo spagnolo, perché sennò sembra sempre di volere. Invece lo spagnolo è una lingua che io amo tantissimo e che ho usato, che mi ha portato molta fortuna nella musica sicuramente, e sicuramente la userò ancora, però la userò quando dico io, ecco, non tanto per rievocare un passato che è passato. Pensiamo al futuro e sono sicuro che nel futuro ci sarà ancora spazio per lo spagnolo. Ascolta, hai collaborato in questi anni con tantissime persone, no? Ora nominavi lo Stato Sociale, penso poi anche, no, ti si è visto in varie occasioni con Jovanotti negli ultimi anni, ma con tantissimi altri artisti. Voglio dire, qual è la collaborazione che ti porti più nel cuore di tutti questi anni? Beh, se parliamo degli ultimi anni, sicuramente la partecipazione a Jova Beach è stata una delle cose, così come la presenza al concerto del 1° maggio, due anni fa, mi sembra 2023, e sono cose molto importanti. Però ti dico, anche quando sono stato, come tu ben sai, al Premio Tenco, dove pensavo di essere un pesce, al Premio Tenco come visitatore, preciso, dove pensavo di sentirmi come un pesce fuor d'acqua, invece quando abbiamo chiuso, diciamo, la festa dell'ultima sera, cantando Vamos alla Playa con i musicisti di Vinicio Capossela, con Holden, anche quelli sono stati momenti di quasi per me sorprendenti, di grandissima soddisfazione. Poi ce ne sono tanti, ho collaborato veramente con molta gente, persino tanti, anche l'anno scorso con Jonathan abbiamo fatto questo singolo che si intitolava ironicamente Ho sempre odiato gli anni Ottanta. E mi è piaciuto collaborare con Nevruz, che è un mio grande amico, mio fratellino, e insomma ce n'è di cose. Adesso forse appunto è arrivato il momento di concentrarmi un po' di più su me e sulle mie cose, ecco. Ed è quello che stiamo cercando di fare, insomma, con il mio staff. Bene, bene. Noi adesso aspettiamo anche il tuo brano. Per chiudere, prima di ascoltarci Compagnero, un'altra domanda un po' così dal baule dei ricordi. Qual è invece, voglio dire, se Vamos alla Playa, ovviamente, la canzone che più ti ha reso conosciuto, che più ancora si canta in giro, qual è invece la canzone che tu hai scritto pensando, no, negli anni successivi che sarebbe stato probabilmente un successo e invece in realtà ti sei preso una sorpresa negativa, diciamo così, e che quindi è una canzone che tu hai un po' nel cuore, però che è stata una canzone sfortunata? Tutto sommato poi si tratta sempre anche di cose un po' così mezzo e mezzo. Il sempre Compagnero è una di quelle sicuramente, ma poi c'è stata anche l'ultimo album di Righeira, che è del 2007, è un album che ha seguito di più Michael come dal punto di vista compositivo. C'era il singolo, che anche quello in spagnolo, La musica elettronica, pezzo che secondo me, infatti probabilmente lo riproporrò dal vivo prossimamente, insomma, magari la monteremo con la calma, ed è un pezzo molto moderno per quando uscì nel 2007, ed era un pezzo che mi piaceva molto, che mi aspettavo, si è sentito un po', sì certo, però non è paragonabile. Certo. Del resto è anche difficile paragonare a certi pezzi che abbiamo avuto, cioè i pezzi che facevano un po' meno non erano come se non avessero fatto niente, perché quelli hanno fatto talmente tanto che è difficile. Beh, poi c'è un pezzo che invece è molto famoso più in Italia che all'estero, ma fino a un certo punto, perché ci arrivo, e che io amo tantissimo, perché mi rappresenta ancora adesso da un punto di vista anche così personale, e L'estate sta finendo, che negli ultimi anni è diventata un coro da stadio che viene praticamente cantato negli stadi di quasi tutto il mondo, cioè in Spagna assolutamente, che è il coro che fa ale ale ale ale ale ale, quella è L'estate sta finendo. Nessuno di chi la canta sa che l'ho scritta io, ma devi chiedergli i diritti. È un po' E questo, sì, soprattutto non si pigliano diritti dai cori da stadio, però ecco, quello un po' mi spiace che non abbia avuto successo anche come canzone, ma non è detto, non è mai detto, perché poi qualcuno a Liverpool, per esempio, l'hanno incisa con gli autori originali, ovvero noi, e l'hanno inciso la versione dei tifosi del Liverpool. Ah, quindi, bello. Quindi, comunque non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi. Comunque anche quella, la canzone che alla fine si sentiva, era un po' invidiosa di Vamos a la Playa, che invece va spopolato in giro per il mondo, e anche lei ha trovato il modo di andare in giro, si è travestita da canzone da stadio ed è finita negli stadi un po' di tutto il mondo, questo vabbè. Fantastico. Ascolta, è comunque la soddisfazione. È come. Noi adesso ci ascoltiamo Companiero del 1988, che, di cui parlavamo prima, e poi in ogni caso, lo annunciamo ma lo spieghiamo tra qualche minuto ai nostri ascoltatori, da Mondovisione 2007 ci ascolteremo un'altra canzone, questo ultimo album dei Righeira. Johnson, ascolta, grazie mille davvero di essere stato con noi e ci vediamo la prossima settimana per Italia Republic qui a Barcellona. Dai, ti abbraccio e a presto. Allora saluto tutti quelli che ci ascoltano e se venite ci divertiamo sicuramente, almeno io, se mi diverto io, divertite anche voi. Alla grande, ciao Johnson. Ciao, grazie. Hacerlo feliz, ya que no luchas más, pero mi hermana, no te ilusiones, confermato una potenziale guerra nucleare. Trump annuncia di aver ottenuto il cessate il fuoco fra India e quartiere Zen di Palermo. Impossibile dire quanto durerà, forse quasi 20 minuti. Svolta diplomatica del governo su Gaza, Meloni. Amici di Israele, ma non possiamo restare indifferenti senza prima consumare alcol. L'ex premier Draghi, fondamentale un piano di difesa europeo o saremo sinonimo di dolcezza? 246 comuni italiani ottengono di più, forse un attizzatoio oppure un martello. Nel cuore del Molise, un piccolo borgo medievale diventa il paese del nulla di fatto, quasi tutti nascosti e pronti per essere smistati. Possibile svolta diplomatica nella guerra in Ucraina. Niente nude look e strascichi, meno provocazioni. Vance e Rubio costretti a cambiare abito. Putin conferma la sua presenza e intende incontrare Putin di persona. L'appello di Papa Leone. I nemici si guardino la finalissima di Amici di Maria De Filippi e nessuno ceda alla mediocrità. Scelto senza alcun merito, con timore e tremore vengo a voi come fratello. La mia missione è contrastare ogni forma di dovere costituzionale. Così il ministro Piantedosi, commosso di fronte al Remigration Summit, il raduno dell'ultradestra a Gallarate. Poi viene preso a calci e pugna per una battuta di troppo del barista. Sono tornate, le avete sentite, mancavano da un po' le ultimissime del nostro caro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, per questo finale di puntata, però insomma, prima di ascoltarci ancora un paio di brani, un commento telegrafico sulle ultimissime. Beh, innanzitutto forse la prima apparizione delle ultimissime di Papa Leone, il nuovo Papa, con un appello abbastanza bizzarro, consiglia agli nemici di guardare la finale di Amici, non lo so, forse di Maria De Filippi, forse allo scopo di favorire una riconciliazione, però invita tutti a non cedere alla mediocrità, e io mi chiedo come sia possibile, cioè è un invito ossimorico, perché tu stai dicendo, cioè guardate la finale di Amici ma non cedete alla mediocrità, cioè, non mi sembra fattibile, ecco, cominciamo male. È effettivamente così. E nell'intervista con Johnson abbiamo parlato di clonazione Jegeje, no? Che è uno dei suoi primi brani, uscito addirittura prima di Righiera, era il 1981, un album, un 45 giri solista, Bianca Surf, prodotto dall'Italian Records di Oderso Rubini, che in quel di Bologna gli affiancò musicisti degli Schiantos, dei Confusional Quartet, e registrarono alcuni brani, no? E con i secondi, con i Confusional Quartet, ha realizzato questa appunto clonazione Jegeje, no? Che anticipa, ce ne parlava anche lui, no? Quell'esplosione dello stile retrofuturista di Ivan Cattaneo. Ivan Cattaneo, sì. Comunque questa canzone si segnala per una rima straordinaria. Vabbè, adesso la sentirete, ma mi piace anticiparla. Voglio un figlio uguale a me per ballare il Jegeje. Ecco, quelle che ci riconcilia un po' con la vita e con l'idea della clonazione, forse, non lo so, forse mi sto spingendo troppo in là. Comunque, questo progetto musicale di Johnson poi naufragherà, e effettivamente non è un brano molto noto, da lì, insomma, la sua strada sterterà verso una direzione molto più synth-pop, che lo porterà poi a Johnson Righiera, che conosciamo, che è quello dei Righiera. E alla fine questi demo, così lontani dall'Italo Disco, verranno recuperati su CD solo 25 anni dopo. Eh sì, è così. Ce ne andiamo ad ascoltare, clonazione Jegeje. Voglio un figlio uguale a me, per ballare Jegeje. Il sistema se qual è, non lo devo far con me. Clonazione Jegeje, clonazione Jegeje. Take it. questa è proprio una chicca, Banzo, per avvicinarci alla fine di questa puntata di Zibaldone, la Repubblica di Johnson Rigueira. Abbiamo parlato, l'avete sentito, con Johnson Rigueira, ma anche di questo bel festival che si tiene la prossima settimana, Italia Republic, 31 maggio 1 giugno al Mall della Fusta di Barcellona. Banzo, noi ci salutiamo con l'ultimo trago, ossia una versione di un brano italiano cantato in altre lingue. Questa volta ovviamente insomma è dedicato ai Rigueira. E che cosa siamo andati a scovare? Spiegalo tu ai nostri ascoltatori. Beh, è una chiusura del cerchio, perché in un certo senso vi ascoltiamo Vamos a la Playa, però in una versione che molto probabilmente non conoscete, è recente, del 2021, cantata in francese. Questa è una cosa curiosa, proposta da Yo Ravage, col titolo Rendezvous sur la Playa, o la Playa, non so come lo vogliono accentare. E questi Ravage sono un duo, Simone Baudou e Martin Choroux, spero di non aver troppo maciullato le pronunce, che fino al 2017 erano anche voce e batteria del gruppo indie rock Exonvald. E in questa cover sostanzialmente riprendono, non so se volontariamente, il primo demo di Vamos a la Playa, perché il brano appunto nasceva come demo del solo Johnson. Abbiamo anche trasmesso in una canzone, sì, uno speciale canzone dell'estate qualche anno fa, preparatevi che ci siamo quasi, e aveva un arrangiamento molto debitore ai Kraftwerk. La cosa curiosa, se non fosse l'ultimo brano, lo direi solo dopo, è che la versione dei Ravage effettivamente traduce Vamos a la Playa, l'arrangiamento è diverso, ma a un certo punto cita Radioactivity dei Kraftwerk. E quindi abbiamo questo incrocio di immaginario nucleare fra i Rigueira e Kraftwerk, che è abbastanza curioso. Comunque, Steven, va detto che Vamos a la Playa ha avuto un successo talmente L'abbiamo detto prima con Johnson, che versioni ce ne sono, non sappiamo quante, non lo sa nemmeno lui, no? In tantissimi paesi. Ma ne citiamo qualcuno così alla rinfusa, cover tradotte in Jugoslavia, Svezia, Brasile, Finlandia, la prima parola è ultravioletti per la cronaca, e nella Germania federale, con un titolo però diverso, che era Hurra, Hurra, Hurra, Wir leben, cioè siamo vivi. Quindi è un testo completamente diverso, è un testo completamente diverso. Quindi chiudiamo in bellezza con questo matrimonio fra Rigueira e Kraftwerk, un po' inedito ma riuscito, grazie ai Ravage. E ce l'andiamo a ascoltare, Rendezvous sur la Playa. Loro sono i Ravage, buon venerdì sera, buon fine settimana, fate l'amore con il sapore, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17.56, tutti i venerdì diceva... Ma chissà poi se Putin è riuscito a incontrare di persona Putin, e se c'è riuscito forse in un lapsus ha anche cercato di avvelenarsi, o un lapsus appunto. Molti lapsus. Ciao Banzo, buon venerdì sera anche a te. Vamos a la playa après l'explosion pour teindre en bleu les nuages. Bronzé sous les radiations, vamos a la playa, masque impératif, protège bien ton visage, l'air est radioactif. Sous les radiations, vamos a la playa.